quale pazzata? Quella c'è al forno. Ma quella in forno? E allora? Oh, io, via. Qui c'è il toro? Cosa? Qui c'è anche il toro? Ma il toro non lo so io. Come è cazzo io? No, ma quando l'hai inserito tu già se lo prendi. E tu mi puoi dipendere anche l'imposta, non è che... capito. Quello è... no, perché mi ho permesso il portatile con due frequenze. Aspetta che sto dando assistenza un attimino a Luca. Assisti, assisti. La Roma, la sapone, la Roma del caffè, la Roma. Stiamo arrivando. C'è qualcuno qua? Diga. E che gli dico? Ero nel cutia capico io, mi sono andato alla canzone, non sono degno di te. E sono arrivato qua. Che cazzo, ciao. È così. E mia moglie sta uscendo che deve fare questo. Saluta la signora allora. Lo saluta. Cosa vuoi tu? Ma va per tu Lugani e che vuoi fare il danno. Guarda, io ho un cucciolo di Rottweiler a 7 mesi. Non fa muovermi che ce l'ho attaccato alle cosce. E questo c'ha 6 anni, ma è un rompiscatole. Era uno piccolino, ma questo forse è il primo che ogni tanto entra in casa a salutarmi e poi a dormire la notte fuori. Perché è sempre un cane, insomma, anche lui deve fare la vita da guardiano. Ecco, come ti sembra questa radio? Ma io non ho notato differenze, va bene. Ma che microfono si può assomigliare? Un V5. No, è una V508, è questo. Non lo conosco. È tipo la Dunis 508, è uguale. Ah, ecco. Sto per dire Cody, però non mi ricordavo il nome. Questo è della Roxel, però è uguale. Il DM5000 questo. Bene. No, va bene. Ho lasciato a Luca in bianco. Luca, non so se c'è ancora. Ma Luca, quello del monte. Sì, va in cugno. E già entra se vuole entrare quel coccuomane. Allora, quella pedivella cos'è? Ma che è Drusacco? Se Casarella. No, io l'altro ho perso i contatti e si è comportato male con me, quindi non lo cerco neanche. Ognuno per la sua strada. L'altro K che avevi dato, like? L'ho dato perché stavo tenendo doppio questo qua, mi è giunta l'occasione, quindi ho fatto prendendo uno e comprando l'altro. Capito. Quello lo stesso già andava bene, però ti dirò la verità, a parte lo smitter, diciamo che questo per me è migliore. Ma ce l'aveva un amico e lo disprezzava quello lì. Capito. Lo disprezzi quando non riesci a utilizzarlo, se riesci a utilizzarlo non lo disprezzi più perché ha tante altre cose che il 44 non ha. L'unica cosa di questo che mi dispiace un po' che non sale di Watt, l'altro saliva molto di più di Watt. Ho capito. Io ne ho avuto due di 44, ma i miei erano signor 44. Le mani mi dovevo tagliare, specialmente con l'ultimo. A volte, non sai cos'è, che sono radio ormai che hanno una certa età, quindi anche anche loro hanno bisogno ogni tanto di una rettificata, però vanno bene uguale, non è che... Sì, a me difetti non me ne ho avuto due, ti ripeto, e sono andati sempre bene, non mi hanno fatto mai nessun difetto. Intendi, ragazzo? Bene, bene, bene. Ma io vabbè, mi piaceva questo. Questo ce l'aveva Marcello Atmosfera tanti anni fa, non so se ti ricordi, che però a primo impatto sinceramente non ci piaceva. Poi invece se lo adopri, se lo mette le mani, tanto è vero, visto che poc'anzi anche in FM dice non fa, non è che non fa, devi toccare delle cose che te devi ricordare, la devi usare la radio, se no non riesci a portarlo al 100%, diciamo. E anche questo, per esempio, non, se non glieli dai tu i watt non li dai in FM, capito? Come quello là che tu, come passi in FM, li dà subito. Ma anche la HR5005 mi pare che sia possibile, adesso non mi vorrei sbagliare, però passando in FM devi aumentarli tu i watt. E infatti, questo qui glieli devi dare tu i watt. Io ero a zero praticamente, quando sono entrato in FM subito mi ha sentito bene Eugenio, e io lo sentivo benissimo lo stesso, invece in AM non riesco a sentirlo bene, basso di radio, cioè, ma perché c'ho QRM, c'ho l'antenna bassa, il segnale è quello che è, c'ho un QRM alto qua, adesso con questo ne ho di meno la verità, ma con quello che stavi dicendo tu, c'avevo un QRM pauroso, ancora di meno lo sentivo. Eh sì, anche questo posso affermare, due, massimo tre, non di più, perché non arrivo neanche a metà, tra l'altro il 10, quindi, e così sono. Allora devi aumentare, per dire come fare, devi giocarti, e poi di vuole devi aumentare tutti, quindi sono due manovre che devi fare, volendo puoi aumentare anche il mic e il microphone, ma lo lascio sempre così perché va bene, solo meno, però fare sempre regolare tante cose, ecco. E infatti addirittura questo microfono c'ha l'FM e l'SCB, io lo tengo sempre in SCB. Ma tu quindi lì banda non ne hai? Sì, e ce le ho. Ma metti in Lima Sierra Bravo. Yeah, I'm going to mai parlato in quella frequenza, in LSB. Va bene, vabbè, ogni tanto bisogna provarci. E stasera ho fatto una chiamata e mi ha risposto una delle Canarie. Sì, alle Canarie è fino, poi stasera c'è una propagazione. Ma arrivava qui sparato questo qui, benissimo lo sentivo qua. Come sentivo a lui, sentivo a lui. Sì, è bello, quando è così va bene. Lui c'ha anche la come si dice, il preamplificatore d'antenna c'ha questo qui, oltre all'attenuatore, no? Sì. Cos'ha la IP? No, c'è scritto pre, quando schiaccio si aumenta il segnale, il preamplificatore d'antenna. Invece qua si chiama diversamente, vedi? Solo che quando è inserito fa una sorta di attenuatore, quindi posso utilizzare due attenuatori, capito? Quando è inserito, amplifica il segnale. Infatti. No, è un bel apparecchio questo, Mi piace forse più del cable. Addirittura tu adesso, io ho messo l'IP e 69915, dai. Ma sono a zero di fattene. Sì, ma voglio dire, mentre invece se lo disinserisco aumenti di più. Infatti lo tengo perché molte volte sono segnali bassi e me li ascolto lo stesso. Io ho aumentato poco fa, quando eravamo in banda laterale, a vedere come arrivava Franco, mi capito? Arrivava benissimo, arrivavi tranquillo. Ma quello Tino, se 40 non ce l'ha l'amplificatore dell'antenna? No. È quello che ti volevo dire. Perché l'amplificatore dell'antenna non ce l'ha né quello nel 140, ce l'ha il 680. Il 680 non mi ricordo, ma il 680 è preciso al 140, quindi suppongo che non credo che ce l'abbia. Ce l'ha. Ce l'ha. Ma no, io sinceramente non l'ho mai avuto, si è attratta, quindi, però essendo preciso qua solo la banda in più. Vabbè, 140 io non l'ho mai avuto, però lo conosco bene lo stesso, anche l'ho visto in casa di altre persone. Ricordo 440 l'ho avuto. Io l'ho avuto qualche anno stesso, e vabbè, andare, no, questo vabbè, ti ripeto, a parte lo smitter che è di quelli, insomma, simile analogico, non semi digitale, volevo dire, non cambia, la radio mi piace di più anche come è impostata, ecco. Certo. Vabbè, dai signori, io vi saluto. Ce la riascoltiamo alla prossima, me ne vado a mangiare. Ciao Natalino, ciao Tino, ci sentiamo, riprenditi. Via, va bene, dai, ci si riascolta le prossime, fate sentire ogni tanto, vai. Andare, vai Natalino. Ok, ben sentito, grazie per il QSO, buona cena, alle prossime. Riprendi Tino. Oh, a proposito, Natalino. Oh, ya dimmi Fra. Con quell'amico niente ancora? Come? Con quell'amico niente ancora? Con quale amico? Lei che è mio collega. No. Non si fa più sentire questo. Fini Minnira mi ha fatto un pezzo. Vabbè dai, peccato che non c'ho il numero di telefono tuo, se no ci saremmo sentiti per telefono. Io già c'ho il tuo, qualche giorno ti faccio uno squillo. Così mi memorizzo il tuo. Prima te lo dico, poi ti mando squillo, adesso non c'ho il telefono qua, se no te l'avrei fatto adesso. Scusate, prima io mi devo spostare, devo uscire. Vi saluto, a dopo se coincide. Ciao. Ciao Natali, dai. Ciao Franco, ciao Tino, alle prossime, dai. Resto un po' in QRX, poi anch'io farò QRT. Ma vero, sì. François. Ciao Natalino, buonasera. Buonasera anche a Tino che ha chiuso e buonasera anche a Franco di Sorso. E a Londra, che si dice? Che si dice? Piove lì. Sì, faccia quello che vuole. E cosa vuoi ti dia? Ricordami che devo comprarmi quelle staffe palo palo, perché non ce n'è a Sassari. Ho ordinato la X30, adesso come mi arriva, almeno ce le ho tutte e due. Ma hai provato dove ti ho detto io là? E dove? A Bricomen. E tanto non devi mandare più a Lubaru. Ah, sì, sì. Tutto l'altro ce l'abbiamo. Quando c'hai tutto, staffa palo palo, è la Brico comunque già ci sono, perché li avevo viste io. Capito? Ehi, ok. Come ti sembra questa radio, Fra? Fai un passaggio. Guarda, uno, due, tre. Sono basso di vattimi, perché già lo sai, ho l'antenna all'offia. Una bombetta, va benissimo, ti ascolto bene. Io vabbè, sto pilotando con 5 watt modulati. La mia com'è di radio? È la solita, da. Questa qui si assomiglia alle MC60. Guarda, sì. Guarda questo passaggio, la radio, che differenza c'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non ha amplificazione, però è chiara chiara, eh. Vabbè, adesso ho inserito, Ah, la fare. lo stavo provando. No, ti ascolto bene, segnale 9+20, a picchi positivi a 9,25, dai. Una bella modulazione. Ma devo tenerlo basso perché purtroppo riesci a vedere quanto ne ho. Vediamo. Aspetta un attimo. Io non l'ho provato, vediamo un po'. Io non ne ho niente, proprio zero completamente di niente, capito? Sì, anche la mia quando si asciuga ne ho zero. Ma la che mi pigli da, quando piazziamo l'altra non sarà più così. Allora, questa mica ne ha fatto di acqua, è puro stazionaria, neanche si muove la lancetta stazionaria. Ma purtroppo è filtrata l'aria qua, è filtrata l'acqua e mi ha riempito dove c'è la bobina lì, e sicuramente me la manda in corto, quando è così mi salgono le stazionarie. Se gusti sì, cosa ci vuoi fare? Bisogna, già la sistemo comunque con l'antenna, vedrai che dopo come va bene. Puoi andare bene me da andare bene, via. Ho cambiato le casse della macchina stasera, che erano fondate. Ah, va giù, c'ho anche quelle posteriori che sono crepate, anche quelle. Sì, già me l'avevi detto. Ne ho messo due nuove, adesso gliel'ho preso e gliel'ho cambiato. Tutto il pannello ho dovuto smontarle per cambiarle. E un'altra, quella posteriore destra, la stessa è crepata. E cosa vuoi fare? Purtroppo. Puoi passare in USB. Cappa. Sì, un po' morsino, ho già pensato, e tu mi senti? Aspetta, e tu che ti senti? Sei un po' morsino. Se ci sei entra dopo. Ok? Io a Giuliazzinato. Io no. Vabbè, se ci sei riprendo dopo. Ok, dai. Saluta in casa, buon carica, buon tutto e ce la riascolta dopo. Ok. Ciao altrettanto, salutami alla signora, alle Prusse. Ciao. Contraccambiato al 100% da parte mia.